E sono le ore 21:28 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, lunedì 14 dicembre del 2020, anche per questa sera appuntamento con Disorder sino alle 23 circa. Naturalmente con i Joy Division sotto la mia voce, Disorder stessa, che tutti conosceranno da Unknown Pleasures, primo album del 1979. www.ondarossa per chi volesse connettersi con questa emittente. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info, domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder andrà in onda la registrazione di questo programma. Si va a salutare Ilaria qui a Roma, Maya in Sardegna, come Nicola Locci di Stigmate ed Hexagonal, due ottimi progetti. Anche lui della Sardegna, Antonio Zoviet di Omicidio, grosse realtà industrial a Firenze. Salutiamo anche Alessandra Fiamignano in Abruzzo. Allora, anche questa sera iniziamo come lo scorso lunedì, andandoci un po' a gustare questo ultimo lavoro di un nuovo cantore maledetto. Nuovo per quanto riguarda questi spazi, si chiama King Dude. Il suo ultimo lavoro si chiama Full Virgo Moon, un ottimo album fondamentalmente di no folk, anche se chiaramente di tanto in tanto ci sono delle interessanti infiltrazioni e influenze di Dark Wave. Una voce molto interessante, un po' a metà tra Nick Cave e Ian McCulloch dei Echo and the Bunnymen. Per cui cominciamo a gustarci queste note così soffuse ed acustiche con 45666, The Satanic Temple e Forgive My Sins. Playing the old tune. six, six, come on, float it past, six, six, six, six. Wrong. selfless one who has the strength to carry heavy loads. Yet I'm alone. Sono giunti intanto altri disorderati, un bellissimo termine coniato da Laura che vado a salutare. E quindi vado a risalutare anche Nicola Locci, Stigmat Hexagonal, Jean-Claude Oberto dalla Val d'Aosta, il maestro Eloquence Recycler di H500 1L. E questi primi minuti li abbiamo passati insieme a questo bardo, questo cantore americano, King Dude, con Full Virgo Moon, suo ultimo lavoro, l'ottavo per la precisione. Thomas Jefferson Cogill, una bella voce intensa tra a metà tra Nick Cave e Ian McGallagher di Echo and the Bunnymen, che molti ricorderanno. E le prime due tracce, lui e la chitarra, l'ultima traccia invece è questa Forgive My Sins, era più complessa come arrangiamento, molti archi e soprattutto un bel pianoforte in primo piano, e scusate il gioco di parole. Uno dei personaggi più positivi della nuova ondata neofolk. Altra novità di questo 2020 è l'ultimo album dei sempre eterni Wire. Veramente un riferimento storico del post-punk, ma anche con elementi di anni 60, psichedelia. Soprattutto agli inizi anche un'attitudine punk che però di tanto in tanto torna fuori. Questo ultimo lavoro si chiama Mind Hive. Ci ascoltiamo A Repentant e Oklahoma. In between the lines. dire un credo un buon ritorno per quanto riguarda gli Wire, questo Mind Hive, intanto altri tre disorderate che vado a salutare: Is It Wild da Milano, Lupsi, Lucia Cagliazza da Udine, qui a Roma Iris Blu. Mind Hive, dunque, post-punk, ma anche qui un episodio acustico, quello precedente, con un bel finale dilatato e psichedelico. Uno dei pochi progetti, diciamo, abbastanza datati, ma che mantengono una dignità artistica niente male, per esempio come i Killing Joke e pochi altri di quella generazione. Sì, disorderate, se l'ha inventato Laura Evil Dead. Disorderate, non male. E disorderati, ovviamente. Si va avanti. Arriviamo qui in Italia. Ancora qualche eco della wave degli anni Ottanta, ma il tutto è filtrato attraverso una sensibilità più elettronica che andremo a constatare da questo duo genovese dal nome The Tapes. Anche loro vengono da lontano, vengono dagli anni Ottanta, poi anche loro 25 anni circa di silenzio e il ritorno di 2-3 anni fa. Questo penultimo lavoro del 2019 si chiama News From Nowhere, esce per la nostra carissima Luce Sia, etichetta svizzera. Loro sono Giancarlo e Roberto Drago, due fratelli provenienti da Genova. E al lavoro di masterizzazione c'è il buon Attila Folklore di Mulo Muto, che abbiamo apprezzato e che apprezzeremo il mercoledì prossimo in prove tecniche di trasmissione. Tornando a The Tapes, ci ascoltiamo Turn On, Tune In e The Golden Ratio. November. Papa November. Papa November. Papa November. Ratio, golden ratio 1.618 to 1.